Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Stiamo cercando di colpire, vediamo un po'. Via! Ecco, no, tiro corto, accidenti. Colpire Alessandra, la responsabile programmi di Radio 24. Riproviamo. Ma che è ancora corto, dannazione. No, perché se non riusciamo a colpirla, lei ha un trabucco, un'arma micidiale con la quale ci distrugge. Benvenuti a Möbius, ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata. Catapulte in Piazza del Duomo a Milano. Le hanno progettate studenti e studentesse delle medie lombarde. È partito il primo esperimento di alimentazione elettrica per auto. A2A installa colonnine a Brescia e a Milano. Una specie di bacca, una volta usata come inchiostro, dà grandi risultati come materiale per i pannelli fotovoltaici. Non rompetevi la testa con Sudoku e quiz per la mente. Non diventerete più acuti e svegli. Il rapporto fra cinema e scienza nel secolo delle nuove tecnologie digitali. Giornalisti con formazione medica sono stati coinvolti nelle operazioni di aiuto ad Haiti. Ne è nato un dibattito sull'informazione. Davide e Chiara, so che siete alla manifestazione di scienza Under 18, una grande sfida a colpe di catapulte, no? Sì Federico, siamo sotto una pioggia battente, io e Davide, alla loggia dei mercanti, proprio di fronte a Piazza Duomo. Ci sono un centinaio di bambini, un sacco di catapulte, ci sono delle squadre con dei nomi improponibili, gli Invincibili, Freccia Rossa, i Briganti, gli Dei in Terra, Barbari, Seguaci Templari. Davide, cosa stai facendo? Io sono qua con quelli della Morte Nera a caricare una catapulta durissima, allora gli sto dando una mano. Davide, non sei capace, lascia perdere, guarda, vado dai ragazzi. Siamo esperti, catapulte. Mangani, trabucchi e poi. Onagri, baliste occulte. Specialisti siamo noi. Tu sei l'ingegnere? Giacomo, seconda D della Media Verdi. Ok, fammi vedere che cosa hai costruito. Allora, questa è una catapulta che si ispira a una catapulta in uso in epoca medievale, il trabucco. E sfrutta come forza la forza di un contrapeso. In pratica c'è questo braccio mobile, a un'estremità c'è il contrapeso e sull'altra estremità viene posto il proiettile. L'estremità dove c'è il proiettile viene abbassata ed è in tensione continua perché il contrapeso spinge verso il basso, no? E quindi quando viene sganciata l'estremità più lunga dove c'è il proiettile, il contrapeso abbassa la leva e quindi fa partire il proiettile. Mia, sei proprio un ingegnere, eh? Ingegnere progettista, c'è anche la maglietta. Abbiamo anche il tecnico, venga qua, prego. Come si chiama il tecnico? Lorenzo Moro. Io sono quello che a vita smonta giusta. Benjamin Bruce. Allora spiegami che cosa avete costruito. Una catapulta a torsione, una fune arrotolata su se stessa. Ok. Poi abbiamo messo questo bastone qua da usare come braccio. Dai, spiegatemi intanto come l'avete costruita. Abbiamo trovato questa vecchia poltrona nella spazzatura, poi pensavamo di usare come la base e poi abbiamo trovato questi da un tavolino vecchio, non so, le abbiamo staccate queste da un vecchio... Ah, le gambe di un tavolino? Sì, le gambe di un tavolino e poi queste le abbiamo comprate al Brico Center. Funziona, sì. Dai. Fatto quasi centro. Lorenzo Loffredo. Gian Maria Cornalba. Scuola. Eorio Vergani, seconda. La nostra squadra è la Freccia Rossa, perché la palla quando la tiriamo scorre molto veloce. La nostra catapulta è un anagro, cioè una leva di terzo genere, ed è composta da fulcro, resistenza e potenza. Con che materiale l'hai costruita? Allora, con un carrellino usato. Aspetta, aspetta, un carrellino tipo quelli della spesa della nonna? Sì, sì, quelli che non è in cantina. Poi un mestolo rotto, mascheggiato. Un bastone d'orto che serve per l'orto. Per i pomodori? Sì. Pezzo di marmo, visto che mio nonno fa il marmista e mi fornisce i pezzi, gli scarti. Senti, funziona? Sì, funziona. Abbiamo tirato a 7 metri, a metà. Il massimo, caricata tutta, arriva a 10 metri. però un po' sballato, quindi a 7 dobbiamo riuscire a prendere il bersaglio. Mi fate vedere come fa? Via! Francesco Cigada, uno degli organizzatori della manifestazione. Adesso vogliamo sapere quali sono i tipi di catapulte che esistono e quali avete preso in considerazione qui. Perché le catapulte? Perché sono dentro le catapulte, condensano quantità di sapere incredibile, sia di tipo tecnologico che scientifico. Noi ne abbiamo individuate, ma come modello, 4 diverse, in base proprio... Che hanno dei nomi quasi impronunciabili. Hanno dei nomi, no, ma sono nomi che proprio hanno dietro una storia lunga, e tutti i nomi con una storia lunga magari hanno anche una capacità di evocare idee e sensazioni. Il trabucco è quello a gravità, cioè nel senso che c'è un peso che cade e una leva di primo genere fa sì che questa leva ruoti e lanci il masto a una certa distanza. La seconda catapulta molto usata, ecco, l'onagro è quella forse anche più diffusa, perché mancando altre tecnologie moderne, è la torsione, cioè con materiali di vario tipo si torceva un'estremità di un'asta, sono sempre leve, per cui alla fine rilasciando quest'asta lanciava alla distanza voluta la massa che poi veniva o incendiare o qualunque cosa fosse. E abbiamo visto che una scuola l'ha ricostruita con una vecchia poltrona molto bella. Sì, infatti. La balista, che poi è diventata la piccola balesta, in realtà come storia è una catapulta. Anche lì l'energia è più a tensione, cioè proprio di tirare sostanze elastiche per poi rilasciare. Quindi come procedimento è forse quello più semplice, che però va regolato con precisione, perché si diceva ogni catapulta deve tener conto di 1000 variabili in gioco. E quindi L'ultima, il mangano, è un misto da altre catapulte. Quello che lo distingue dal trabucco è che l'energia è quella dell'uomo, cioè nel senso che è qualcuno che tira, che tende la corda, ma direttamente lascia andare, mentre per le altre catapulte c'è più una carrucola che gira, più un sistema di marchingegni che si flettono. Lì invece proprio è tante persone, tanti schiavi, tanti combattenti, tanti soldati che si mettono insieme, fanno loro da peso e poi lanciare il più lontano possibile. Volare, oh, oh, oh. Lanciare, oh, oh. Siamo con Daniela Folcio, che è la coordinatrice dell'evento milanese. Che cos'è Scienza Under 18? Scienza Under 18 è una manifestazione pubblica, arrivata alla 13ª edizione per Milano, ed è una manifestazione nella quale le classi presentano a un pubblico vasto, che è quello di altri studenti o anche normali visitatori, frequentatori dei chiostri della Besana, perché oggi siamo alla loggia dei mercanti, ma nei giorni prossimi saremo alla rotonda della Besana, presentano i lavori che hanno fatto nelle scuole, lavori di carattere scientifico che hanno fatto in laboratorio. Quanti siete? I progetti sono 50, hanno coinvolto una 70ina di classi e altrettanti insegnanti. Niente male, cosa volete raccontare a Milano di scienza? Beh, gli argomenti della scienza che i ragazzi racconteranno sono dei più vasti, si va dalla chimica all'energia, alle energie rinnovabili, alla robotica, ai meccanismi automatizzati, sugli ascensori. Ma quanti anni hanno questi ragazzi? Sono dei giovani Einstein? Allora, se io in un esperimento cerco di validare le mie ipotesi e le leggi, come dire, mi scaturiscono dalle mani, le leggi, le proprietà, le caratteristiche di quello che sto facendo mi scaturiscono tra le mani, nel sapere che passa attraverso le emozioni sicuramente si sedimenta molto di più di quello letto sui libri o ascoltato dall'insegnante. È stato uno degli scienziati più grandi del secolo scorso e uno dei più grandi in assoluto. Si chiamava Richard Feynman, era nato a New York nel 1918, ha vinto un Nobel per la fisica nel 1964, ma avrebbe potuto anche vincerne di più. Suonava i bongos e su YouTube ho trovato due filmati di lui mentre suona. E È abbastanza bravo, no? Il suo contributo più importante è stato nel campo della meccanica quantistica. In particolare inventò un certo modo di calcolare, non sto qui a cercare in pochi secondi di divulgare di che si tratta, un certo modo di calcolare molto efficace, molto intuitivo, con una geniale scorciatoia per arrivare al risultato. Si commentò questa sua tecnica come l'introduzione della balestra in un mondo in cui tutti erano armati di arco e frecce. Siamo sempre qui, mi pare, oggi, fra le armi di un tempo, balestre, catapulte, insomma. La capacità di trovare soluzioni si manifestò molto chiaramente nel mese di marzo del 1988. 2 anni prima, molti di voi probabilmente ricorderanno, ci fu il grave incidente dello shuttle. Era il marzo del 1986. Lo shuttle si disintegrò pochi minuti dopo il decollo. Ci fu una commissione di tecnici e scienziati nominata dal governo, e di questa commissione fece parte anche Feynman. Nella prima riunione che la commissione tenne nel febbraio di quell'anno, dopo che appunto questa commissione aveva assunto varie informazioni, Richard Feynman si presentò con un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio e in questo bicchiere infilò una guarnizione di gomma. Dopodiché disse: I believe that has some significance. Disse, credo che questa cosa abbia molto a che fare con il nostro problema. Cosa dimostrò Feynman? Dimostrò che una temperatura molto bassa può irrigidire una guarnizione, e quando da questa temperatura si passa a una gradazione ben superiore, la guarnizione si rompe. Questo era successo. Durante la notte a Cape Canaveral la temperatura era scesa considerevolmente. La mattina, quando lo shuttle decollò, la guarnizione di uno dei grandi serbatoi con il combustibile per la messa in orbita si ruppe e tutto prese fuoco. Si capì che le procedure di monitoraggio dovevano essere migliorate notevolmente. Richard Feynman morì nel febbraio del 1988. Qui lo ascoltiamo sempre con i bongos, ma anche come cantante, in un'esecuzione coerente con il lato un po' folle del suo carattere. È una sua composizione, se non ricordo male, intitolata Orange Juice, succo d'arancia. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al gioco, il nostro quiz. Fate attenzione che lo leggo piano. La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni? La prima possibilità, 100. E ci scriverete 100. La seconda, non c'è risposta perché non sappiamo l'età dei singoli, ci scriverete niente. La terza, 96, e ci scriverete 96. Se non riuscite a rispondere, non preoccupatevi, perché il perché lo capirete fra poco in un nostro servizio. Dove dovete mandare la vostra risposta? Al 349-238-6666 con un SMS. Il libro che si vince questa settimana è La fantasia, i nostri mondi paralleli, di Paolo Legrenzi, edizione Il Mulino. In collaborazione con IBS.it. Allora è partita la prima esperienza, e di che si tratta? Lo vediamo rapidamente. L'ospite mio questa sera è Donato Zambelli. Buonasera Zambelli. Buonasera. Allora, lei è project manager per A2A di questo progetto, che è quello delle colonnine elettriche. Sì, si chiama E-Moving. Vuol dire appunto, è un progetto che riguarda l'infrastruttura per alimentare attraverso queste colonnine delle auto totalmente elettriche. Ecco, allora prima io ho detto finalmente è partita questa cosa, che avrà probabilmente un lungo percorso sempre in crescita. Ricordo che A2A è uno dei principali fornitori di energia elettrica e anche altre energie in Italia. Senta, questo esperimento allora di collocazione delle colonnine parte a Brescia e a Milano? Sì, nelle due città dove A2A è distributore dell'energia elettrica. E voi siete insieme a Renault-Nissan? Cioè avete... Abbiamo sottoscritto un accordo con questo gruppo. Renault-Nissan sono due grandi case costruttrici che hanno fatto un accordo che, comporta tutta una serie di attività, tra cui anche lo sviluppo di auto totalmente elettriche, da non confondere con le auto ibride che hanno un accoppiamento di un motore elettrico con un motore a combustione interna. Stiamo parlando di auto con il solo motore elettrico che funzionano alimentate dalla rete elettrica. Allora, questo accordo prevede che Renault Nissan mettano a disposizione un camioncino per servizi commerciali in città, ma anche un'auto berlina. Sì, in questa prima fase un'auto commerciale, un Kangoo, due posti furgonato, e poi una berlina a tre volumi a cinque posti. Immagino che la scelta di avere appunto i veicoli commerciali sia più che, insomma, mi sembra più che corretta proprio per dare inizio a questo utilizzo dell'energia elettrica, perché si prestano molto bene, insomma, a questo tipo di alimentazione. Sì, soprattutto in città congestionate dal traffico e dai problemi legati al traffico di inquinamento come Milano e Brescia. Certo. Ovviamente questo tipo di mezzo, il primo, il Kangoo, prodotto dalla Renault, è per piccole aziende, servizi commerciali, certo, trasferimento di macchinari, idraulici, cose di questo genere. Sì, ma ne siamo assolutamente pieni nelle nostre città. Esatto. Queste colonnine possono erogare una carica sia in 8 ore che anche in molto meno, no? Diciamo che le colonnine, soprattutto quelle da posizionare sul suolo pubblico, sono predisposte per caricare queste auto in tempi anche ridotti rispetto agli attuali oggi possibili. Oggi con le batterie al litio di cui sono dotate queste automobili è possibile utilizzare la cosiddetta carica lenta. Sì. In sostanza si utilizzano 3 kW di potenza e per caricare un'auto da vuoto a pieno sono necessarie 8 ore. Certo. Aumentando la potenza disponibile durante la fase di carica, non oggi, ma tra poco, si riuscirà ad alimentare in breve tempo, nell'ordine dei 20-30 minuti, la stessa automobile. E queste quindi sono già predisposte, devono arrivare le batterie. Sì, esatto, e siamo in attesa tutti delle batterie che possano accettare questo tipo di carica. Sono previste entro il 2012, senz'altro. Quindi non lontano da oggi. Non lontano da oggi, sì. Queste colonnine hanno anche una certa intelligenza, per esempio si fanno trovare, no? Ho letto nei vostri documenti. Colloquiano con il navigatore sull'auto, quindi danno l'indicazione dove ci sono le colonnine e prevediamo nel breve periodo di riuscire a trasferire al navigatore delle auto anche la situazione delle colonnine stesse, vuoi anche per i tempi di ricarica. Vorremmo riuscire a portare sul navigatore del guidatore la situazione della colonnina, se è utilizzata in quel momento oppure se è libera. E io qui dico che poi in un futuro, speriamo non molto lontano, queste colonnine saranno anche in grado di dialogare, insomma, con chi carica le macchine e poter mettere, togliere, insomma, energia elettrica e inserirla, diciamo, nella rete. Volevo chiedere, Zambelli, quante sono? Con quante partite? Allora, noi in questa fase, questo è un progetto pilota, oggi andando in una concessionaria delle auto tradizionali non c'è ancora la possibilità di acquistare un'auto elettrica. Per questa fase pilota sono auto a noleggio, sono 70 che saranno, diciamo, posizionate, sì, saranno distribuite tra Milano e Brescia, 60-70, ecco, il numero preciso è questo. E poi mano a mano andrete a crescere. Dal 2011 non solo Renault, Nissan, ma anche altre aziende intendono già mettere in vendita presso le concessionarie auto elettriche. È atteso questo passo del mercato nei primi mesi del 2011, poi il vero boom dovrebbe essere fine 2011, da 2012 tutte le grandi marche avranno a disposizione per i loro clienti auto elettriche. Grazie Zambelli, e vi seguiremo in questa collocazione delle colonnine nelle nostre città. La ringrazio. Barbara Gallavotti vi racconta ora una vicenda strana ma significativa che ci porta indietro di qualche mese, durante le prime settimane di soccorsi per il terremoto di Haiti. Sentite. Nel disastro del terremoto di Haiti si è anche verificato una sorta di caos mediatico, almeno possiamo parlare di una confusione di ruoli che ha riguardato alcuni giornalisti anglosassoni. Si tratta di giornalisti laureati in medicina che si sono trovati sospesi fra il loro ruolo di informazione e quello del medico. Non sono però giornalisti qualsiasi, sono le vere e proprie stelle dei più grandi network televisivi, come Sanjay Gupta della CNN o ancora Jennifer Ashton della CBS, che per la cronaca si è trovata impegnata in un'amputazione, oppure il chirurgo Nancy Snyderman della NBC o Richard Besser della ABC, che ha aiutato in un parto. Tutti giornalisti divenuti protagonisti delle loro stesse cronache. Ma è normale? Cos'altro avrebbero dovuto fare? E l'informazione, quanto ne ha risentito? Ne parliamo con Nico Pitrelli, co-direttore del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA. Buonasera. Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Cominciamo a dire che si è discusso molto sui media americani e anche sui canali di informazione in internet di questi giornalisti. Loro ovviamente sostengono che, siccome si sono trovati nelle condizioni di aiutare in quanto medici, non sarebbe stato giusto, non sarebbe stato etico non farlo. Però, certo, viene il dubbio che ci sia stata una sorta di autocompiacimento in questi cronisti che hanno utilizzato le proprie competenze mediche e in modo da diventare, non dico i protagonisti, ma quasi gli eroi delle storie che loro stessi hanno raccontato. Lei che ne pensa? Beh, penso che questa vicenda riproponga per certi aspetti una questione antica che si ripropone varie volte, che è legata al problema dell'etica, della deontologia, della professione giornalistica. Per altri aspetti ci sono degli elementi nuovi. Come lei ha già ricordato, chi sostiene la inopportunità della sovrapposizione dei ruoli si richiama alla necessità da parte del giornalista di mantenere un certo distacco, una certa obiettività rispetto alle storie che racconta. E d'altra parte alcuni sostengono che il comportamento di questi medici, giornalisti, ha valorizzato la notizia, nel senso che ha dato al pubblico la possibilità di capire quale fosse la gravità della situazione in cui si trovava la popolazione di Haiti nei primi giorni del terremoto. Io credo che, detto questo, più in generale, dal punto di vista dell'etica e della deontologia professionale, il problema ha invece anche degli elementi nuovi oggi, perché, come sappiamo bene, ci troviamo in un quadro di grosso cambiamento per l'insieme dell'informazione ed è difficile trovare in questo nuovo quadro un quadro normativo di riferimento che stabilisca pertanto le norme a cui ci possiamo richiamare per definire un'etica appropriata, quando ci sono le pratiche giornalistiche, le relazioni sociali fra giornalista e pubblico in un continuo mutamento. Ecco, lei citava il punto della notizia, perché sì, viene da chiedersi, dal punto di vista dell'informazione, cosa succede? Dov'è la notizia? È veramente interessante per il pubblico vedere il proprio cronista che opera come un medico, e poi perché proprio lui, quando in quel momento ci sono centinaia di altri medici che stanno lavorando in maniera più silenziosa. Immaginiamo se durante la guerra in Iraq ci fosse stata Giovanna Botteri, che era allora inviata dal telegiornale, che invece di raccontare gli eventi bellici si fosse fatta riprendere mentre prestava soccorso ai feriti. Sarebbe stato sensato dal punto di vista della notizia? Questo che lei dice in qualche modo ci fa pensare che la notizia è una merce, un qualcosa che è soggetta a cambiamento. Da un punto di vista dell'informazione tradizionale a cui siamo abituati, la vicenda dei medici reporter americani potrebbe non avere le caratteristiche di una storia notiziabile, però la notizia è anche definita dal pubblico che gli dà questo statuto, ovvero dalla forma di consumo. Ecco, queste forme di consumo probabilmente in modo sicuramente disomogeneo, in modo non facile da delineare, però sono forme di consumo che stanno cambiando, che sono molto dinamiche, che sono soggette ai mutamenti più generali dell'ecosistema dell'informazione, e quindi e la risposta se è una notizia è no richiama un pochino vecchi dibattiti nel giornalismo: sono i giornalisti a stabilire questa notizia o è appunto il pubblico a dargli uno statuto per cui quella storia viene ritenuta credibile, quella storia viene ritenuta attendibile, quella storia diventa interessante per un certo pubblico, per un contenuto di informazione in più che prima il pubblico non aveva. Evidentemente, se le reti televisive come la CNN ed altre hanno ritenuto di mandare in onda il video dei medici reporter, hanno sicuramente fatto una valutazione che esprime questo quadro dinamico, ma anche un cambiamento in cui quella notizia è stata considerata tale. Nel caso specifico, proprio a proposito del ruolo del pubblico e anche dei media nel definire che cos'è una notizia, è successo qualcosa di particolarmente interessante, perché poi c'è stato un grosso dibattito in rete che forse senza la rete stessa non sarebbe stato possibile. Certo, questo credo che sia un esempio di come ci sia, grazie alla rete, quella che viene definita la coda lunga della notizia, cioè la notizia non si esaurisce solo nella pubblicazione, ma attiva tutta un'altra serie di dibattiti, di definizioni che in qualche modo allungano la vita della notizia, quando prima invece senza la rete la notizia in un certo senso era molto più circoscritta nello spazio-tempo. Grazie Nico Pitrelli, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve l'avevo detto quando abbiamo fatto il quiz, non preoccupatevi se non vi vengono bene questi giochini di destrezza, per esempio con i numeri, perché? Perché ve lo spiega Chiara Albicocco, alla fine del suo servizio vi darò la soluzione. Chi di noi almeno una volta nella vita non ha risolto test o quesiti di questo tipo? Ve li faccio. La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni? Oppure, un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è 3 volte più grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni avrà la sorella? Sì, sono sicura che c'è qualcuno che ha già risposto in pochi secondi e alcuni che neanche dopo mezz'ora ne verranno a capo. Vabbè, comunque, vi dico forse dopo la risposta. Ultimamente, comunque, impazzano tra i giovani e non, specifichiamolo, software e giochini per misurare l'intelligenza e per tenerla allenata. Ma questi quiz, che diciamolo sono pure abbastanza divertenti, tengono davvero allenata la nostra mente e misurano davvero il nostro quoziente intellettivo? Nature, la prestigiosa rivista di scienza, ha pubblicato uno studio britannico su questo tema. Allora, i ricercatori dello studio hanno analizzato più di 11.000 giocatori per un periodo di 6 settimane. Li ha divisi in 3 gruppi, dunque il primo gruppo doveva risolvere questi quesiti, questi indovinelli tramite un noto videogame portatile per una decina di minuti al giorno per 3 volte alla settimana. Il secondo gruppo invece doveva sottoporsi a questi esercizi cerebrali in forma cartacea, quindi come siamo abituati noi con l'enigmistica, e il terzo invece doveva risolverli online, cioè su internet. Dunque, nei 3 gruppi la pratica era sempre la stessa e cambiava soltanto il metodo di rispondere. Ecco, volete sapere quali sono stati i risultati? Secondo voi c'è stata differenza intellettiva tra i vari gruppi dell'esperimento? La risposta è no. Cioè la ginnastica per la mente, come spesso la chiamiamo, sembrerebbe non servire a molto. E però, diciamolo, non è che faccia dei danni, E su questo tema sentiamo il professor Paolo Legrenzi, che è qui con noi questa sera. Buonasera, professore. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Lei è docente di psicologia cognitiva presso l'Università IUAV di Venezia e, insomma, è abbastanza d'accordo con queste conclusioni dello studio. Sì. Anzi, dirò di più, se la risposta fosse stata sì, sarebbe stata una rivolta sconvolgente nella storia della psicologia cognitiva. Sarebbe stata una scoperta, voglio dire, tipo la teoria dell'attività, ecco. Perché non è un problema nuovo nella psicologia questo, è un problema che ha più di un secolo di vita, quindi sono 100 anni che ci si cervella su questo. Quindi tra voi psicologi, insomma, sì. Si sapeva più o meno che... Sì. Ecco. No, se fosse venuto fuori sì, cioè che... Era sconvolgente. Quindi il risultato... Però il risultato è interessante, perché è sconvolgente invece rispetto all'opinione comune, non di quella degli esperti. Sì, perché l'opinione comune è proprio di diventare più svegli, più intelligenti. Certo. E se l'opinione comune non credesse che questo fosse possibile, i giornali, i giochi, internet non venderebbero e non diffonderebbero dei... esercizi che hanno lo scopo di, come dice la parola stessa, brain train, allenamento alla mente. Siccome uno va in palestra e allena il corpo, se ha una concezione ingenua che la mente sono dei muscoli mentali per cui si può comunque allenarli, in tal caso qua, per trasposizione, come lei va in palestra, fa una palestra mentale. Purtroppo questo, che sarebbe bellissimo, non funziona. Niente, ne rimarrà delusa la mia nonna che adora l'enigmistica, lo sa, Sì. No, naturalmente sua nonna diventa più brava a fare enigmistica, Ecco, non ecco, specifichiamolo. Il problema è sottile. Esatto, si diventa bravi... si diventa molto bravi a fare quella cosa. Il problema su cui, sua nonna fa enigmistica, è molto più brava di lei a fare. Il sudoku è stato molto studiato, perché vede, mentre la sistematica enigmistica in realtà mescola componenti diverse, per fare la sistematica enigmistica molte volte bisogna sapere qualcosa sul mondo. Un po' mondo. Di cultura generale, sì. E certo, lei l'ha fatta in inglese, vede che molto, la sistematica enigmistica in inglese è molto più difficile in italiano e viceversa. Invece il sudoku ha messo tutti i milioni e milioni di cultori di questo gioco, che impazzava, impazza ancora, ma in Europa impazzato, in Italia diciamo da 3 anni. Sì, proprio è vero, è un caso di moda. Puro, di pura ginnastica mentale, perché lei deve conoscere i numeri, quelli che si imparano nei primi 3 anni, neanche le tabelline, perché non deve neanche sapere fare. No, è vero, sapere quello che un bambino impara a 7-8 anni, quindi sono tutti su piedi di parità. Ciò non toglie che se lei fa molto sudoku diventa molto bravo, quando lei inizia è meno bravo. Il problema su cui gli psicologi sono scervellati, sì, erano due cose. Senza pretendere di avere un allenamento che si trasferisce ad altre cose, mi spiego, se lei fa 10 attrezzi in palestra, l'11esimo, e lui fa per un anno, farà molto meglio l'11esimo rispetto a uno che non è mai andato in palestra. Sì. Se lei fa 10 sport, fa meglio il successivo. C'è transfer, gli psicologi dicono, usano questa parola, cioè trasferimento di competenze dal compito A al compito B, sia esso fisico o sia esso mentale. Questa è la grande sfida, perché è questo su cui gli psicologi hanno cercato di vedere se era possibile. E per molto tempo hanno sperato che questo fosse possibile, perché se lei ha una teoria del ragionamento e del pensiero tale per cui si tratta di fare certe operazioni, queste operazioni poi sarebbero trasferibili ad altre. Purtroppo, da questo punto di vista, quando noi sappiamo fare bene una cosa, anche le competenze di base, astratte, che servono per fare quella cosa, ragionamento e così via, non si trasferiscono, ecco, restano attaccate a quella cosa. Questo non impedisce però che lei non possa fare dei test di intelligenza, che è una cosa diversa, è misurare quanto uno è intelligente. Ecco, questi funzionano? Questi funzionano invece. Ah. Se lei misura quanto uno è capace di intelligenza spaziale, per fare un esempio, tutti i compiti che implicano intelligenza spaziale, uno li saprà fare meglio. È una cosa diversa dal brain training. Il brain train è allenarsi in certi giochetti sperando che questi aumentino l'intelligenza generale. Questo è falso. Sì. Invece la misura del livello di intelligenza, anche questo però una cosa molto più articolata di come ecco, diciamo forse, qua, perché si spacca pezzettini, capisce? Bisogna specificare che è un certo tipo di intelligenza, giustamente le diceva l'intelligenza spaziale nel momento in cui risolviamo quei quesiti con le figure geometriche. Quando si faceva il militare, gli italiani che non sono abituati a fare i test a scuola, a differenza dei paesi anglosassoni, sì, in genere li flottavano la prima volta come se non militare, adesso non è più una cosa obbligatoria. E adesso qualcuno li fa per entrare all'università, io non lo feci. Però io li ho fatti per molti anni, perché data la mia specialità ho fatto i test per entrare a Sant'Anna alla normale, per esempio. Sì, terreno infatti interessantissimo, perché erano i più bravi d'Italia e concorrono per essere selezionati per pochissimi posti. Quindi per noi psicologi è una sfida molto alta, che mi ha attirato per anni, ho fatto questi studi. Se lei però va a vedere, anche più banalmente, i test che si fanno per entrare in Bocconi o a medicina a Milano, visto che sì, è a Milano, sono test anzi di conoscenza, che è un problema totalmente diverso. Ecco, sì, infatti forse totalmente, bisogna un po' distinguere. Dobbiamo distinguere, sì. Esatto. Un conto è sapere se lei è ignorantona sul mondo oppure no. Quando lei guarda quelli con Jerry Scotti, con 4 scelte la sera, che guardano 8 milioni di italiani, sì, quindi molti li conosceranno, quelli sono quiz puri di conoscenza. Lei lo sa, voglio dire, qual è il golfo più stretto, il fiume più alto, eccetera. Quelli che fanno l'università sono un misto per selezionare l'università. Sono dei test di intelligenza astratta tipo le matrici di Raven, uh-huh, e dei test per non prendere uno proprio che è ignorante con una talpa. Quindi sono un mix che mettono insieme varie conoscenze per misurare, ho capito. Come si fanno in Stati Uniti da decine e decine di anni. Gli americani fanno un test uguale, pensi, per tutti i bambini, gli adolescenti americani, si chiama SAT, che si fa a 17 anni ed è importantissimo nella vita di una persona, perché in base a quello lei va in università più o meno prestigiosa. Ah. Dopodiché, in base all'università, fa il GRT, quello diciamo per passaggio successivo di studi per andare dentro una school, per diventare avvocato, finanziere, sì, medico, balle varie. Ecco, e quindi hanno un edificio enorme che prepara questi test vicino a Princeton, che si dedica esattamente a questo, perché lì l'ideologia è di mettere tutti su un piede di parità, mentre qui la normale, Sant'Anna, Pisa, sono già scuole per secchioni. Certo. Cioè, se uno non ha fatto benissimo il liceo, lì non ci entra. Invece gli americani sono più tipo Rossella O'Hara, via col vento, domani un altro giorno, le danno sempre una possibilità. Questi sono test, anche questi, che sono test misti, molto meglio, molto più dettagliati, più lunghi di quelli che si fanno in Bocconi, per entrare a Bocconi, per andare dentro la medicina. Sì, eh? Sì, non stento a crederlo, sì, sì. Ecco, sì. Perché dipende dalla sua vita, eh? Certo. La differenza, quando uno va in Bocconi qua, poi va a lavorare, prende stipendio come un altro, più o meno, non è che gli viene riconosciuto molto. Invece lei si esce da Princeton, voglio dire, con un dottorato in finanza di Princeton a 25-26 anni, per uno stipendio quattro volte agli altri. Una carriera più brillante, certo. Sì, sì. Ma senta professore, ma allora esistono degli strumenti, diciamo, per tenere la mente in allenamento, ma non solo in allenamento, proprio per conoscere di più? Beh, certo, esiste. Cosa vuol dire? In poche parole, come diceva Keynes, l'allenamento, per tenere la mente in allenamento, in vari settori, per esempio il mio settore è studiare. Ecco. Basta, capisce? Lei passa. È inutile che troviamo degli altri scamotaggi. Ma non ha una tecnica accelerativa per cui se io faccio molto sudoku divento un migliore studioso, mi vengono più idee per fare delle belle ricerche in psicologia. No. Neanche settimana enigmistica? È puro divertimento. Diventa più brava a fare settimana enigmistica e trae soddisfazione dal fare bene quella cosa lì. Chiarissimo, grazie professore, è stato gentilissimo, abbiamo ora tutto molto molto più chiaro. Buona bene. Serata. Grazie a lei, buona serata. Eccoci allora alla soluzione, ve la ricordate la domanda? La somma dell'età di sei ragazzi è di 64 anni, quale sarà la loro somma fra sei anni? 100 è la risposta giusta, perché l'età dei singoli non ci serve come informazione, in quanto saranno sei anni in più per ognuno di loro. E quindi 6 per 6 uguale 36 e sommato a 64 ci dà 100 complessivi. Questa era la soluzione. Nella storia del Sud America la figura di Simón Bolívar, ma credo che si dica Bolívar, è una figura epica ed anche però molto sostanziale. Nacque nel 1783 e fu l'indiscusso iniziatore della liberazione del continente dalle dominazioni di potenze straniere, principalmente la Spagna. Bolívar morì a soli 47 anni di tubercolosi, si disse, e infatti su questa morte non ci furono notizie precise. Ora però emerge da ricerche sviluppate da un team della Johns Hopkins University negli Stati Uniti che le cose devono essere andate molto diversamente. Testimonianze storiche raccontano le ultime settimane di vita di Bolívar. Le sue condizioni fisiche erano molto gravi, la pelle si era notevolmente scurita, aveva frequenti perdite di coscienza, forte perdita di peso, tosse continua. Tutte insieme non sono sintomi da tubercolosi. Bolívar aveva anche intense difficoltà respiratorie e forse questo ha fatto pensare alla tubercolosi. Ma c'è un'altra possibile causa. L'ingestione di arsenico, che invece ben si accoppia con gli altri sintomi. Omicidio, dunque, no, non è così semplice. In realtà era noto che Bolívar usava l'arsenico per curare certe assenze di coscienza ed anche delle fastidiosissime emorroidi. Non ci si sorprenda, in quell'epoca l'arsenico in piccole dosi era usato per diversi rimedi e più andiamo indietro nel tempo, questa cosa di una sostanza sola per tante patologie era molto diffusa. E a questo punto, solo recuperando i suoi resti dalla tomba e sottoponendoli a esami con nuove tecniche, si potrà capire se l'arsenico fu la causa della morte. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dr. Grant, welcome to Jurassic Park. Benvenuti a Jurassic Park. Chi non ricorda questo film, che è stato l'inizio di molte cose nuove per il cinema, perché ha introdotto delle tecniche che hanno aperto una direzione di grande impatto. Cinema e scienza, un tema nel quale c'è il contenuto, la scienza come contenuto, ma anche come strumento, perché le tecnologie cinematografiche sono appunto tecnologie molto sofisticate. E qui con me questa sera Gaetano Pecoraro. Buonasera Gaetano. Salve a tutti. Della scuola di giornalismo dello IULM, che per Mebius ha costruito un viaggio a tre voci. Chi sono queste tre voci? Sì, ecco, siamo partiti da Matteo Merzagora, che è appunto autore del libro Scienza da vedere, quindi è uno proprio che si occupa nello specifico di questo rapporto. Cinema e scienza, sì. Esatto. È l'unico che ne ha scritto in Italia. Sì, e che appunto fa anche una schedatura di tutti i film che appunto hanno avuto un legame con... più o meno forte con gli argomenti scientifici. Dalle origini fino ad oggi. Fino ad oggi. Poi abbiamo sentito Maria Grazia Mattei, che è la fondatrice di questa, come si può definire, si chiama MGM Digital. È una società che lavora nella cultura digitale, lei è una delle migliori analiste, no? Esatto, e quindi un po' più dal contenuto passiamo anche all'aspetto tecnologico, esatto. E infine un finale a sorpresa con Enrico Ghezzi, critico cinematografico. Credo che molti lo conoscono e dirà, ho sentito un po' il file, che era una roba abbastanza suggestiva in generale sul cinema. Va bene, allora sentiamo Matteo Merzagoro e cosa gli hai chiesto, Gaetano? Semplicemente abbiamo chiesto appunto cosa sta, qual è l'origine di questo rapporto scienza e cinema. Quello che è certo è che lo sviluppo tecnologico del cinema ha delle basi nelle esigenze di scienziati. I primi strumenti che cominciarono ad avvicinarsi a quello che oggi chiamiamo cinema, che attribuiamo la nascita nel 1895 dei fratelli Lumière, ecco, le anticipazioni di questa tecnologia venivano da esigenze scientifiche, in particolare da due esigenze, astronomiche e fisiologiche. Astronomiche nella veste di uno scienziato, Janssen, che aveva un'esigenza a un certo punto di studiare un fenomeno astronomico raro, il passaggio del Sole di Contadina, insomma un allineamento dei pianeti particolari tra Terra, Sole e Venere, che si sarebbe ripetuto soltanto in un periodo in cui lui non sarebbe stato in vita, e quindi aveva bisogno di fissare questo evento rapido per poterlo poi studiare con calma e capirne i dettagli. Per fare questo sviluppò un fucile fotografico che riusciva a prendere una serie di immagini in sequenza e che gli avrebbe permesso poi di analizzare con calma i suoi dati. La stessa cosa fece poi per un'eclisse in cui di nuovo una serie di immagini ravvicinate diventavano uno strumento di indagine scientifica di un fenomeno che non si sarebbe ripetuto, un esperimento che non avrebbe potuto essere ripetuto. Un'altra esigenza è di tipo fisiologico, Etienne Jules Marais, era un francese, che aveva delle esigenze di nuovo scientifiche nello studiare certi comportamenti del movimento animale, come un gatto riusciva a fare una torsione tale da permettere di cadere sempre in piedi. Sono domande che possono sembrare stupide, ma sono domande fondamentali dal punto di vista scientifico. O semplicemente di analizzare nei dettagli un uomo che cammina o altri animali, il volo di un uccello, in particolare studiare i gabbiani. L'esigenza di raccontare il mondo non verrà toccata dalla possibilità di ricostruire il mondo. I cineasti hanno comunque come loro punto di partenza la realtà, e credo che questo non cambierà perché è questo che il pubblico chiede, cioè di raccontare storie che sono storie vicine o lontane, ma comunque partono da quello che le persone vivono. Ora, se per raccontare queste storie c'è uno strumento come il digitale che permette di evitare di passare talvolta dal filmare la realtà, questo può darsi. Se questo voglia dire evitare di confrontarsi con la realtà, questo sinceramente non credo. I narratori di fatto hanno sempre fatto lo stesso mestiere, non c'è stata tecnologia che ha toccato questo aspetto di sapere leggere, interpretare e restituire per il pubblico uno sguardo sul mondo. Dopo Matteo Merzagora andiamo a Maria Grazia Mattei, analista insomma dei processi digitali e multimediali. Mi pare che lei esprima una posizione nettissima. Sì, esattamente. Cioè, non ha dubbi nel dire in Italia per molto tempo abbiamo avuto alcune resistenze, soprattutto appunto per l'ingresso di queste nuove tecnologie nel cinema. Chi ancora ha dei dubbi sul fatto che appunto la cosa sia inevitabile e importante, sta indietro, è impossibile. E dice anche che c'è una nuova generazione di registi che però sta cercando di recuperare. Sentiamo. Cinema sarà travolto, sconvolto da questa evoluzione digitale, non solo per gli effetti speciali che sono una punta di iceberg, ma per quanto riguarda tutta la filiera produttiva dell'industria culturale cinematografica. tutto il dibattito in Italia, soprattutto in Italia, dove c'è un'industria cinematografica tutto sommato ferma, le resistenze dell'establishment del mondo del cinema, registi, produttori, eccetera, verso il digitale, verso la trasformazione digitale dell'industria cinematografica e del film, erano resistenze che si attaccavano a un fatto: il cinema dei grandi effetti speciali a noi non interessa. Il fenomeno è molto più vasto dal punto di vista dello sviluppo dell'industria del cinema, riguarderà tutto, travolgerà tutto, dalla pre-produzione fino alla distribuzione. Questo l'ho detto a Venezia nel 96. Abbiamo fatto un workshop mettendo in scena con le industrie che allora erano a disposizione tutte le tecnologie per capire cosa voleva dire lavorare nel cinema digitale, e lì si vedeva tutta la filiera annunciando anche il fatto che prima o poi arriverà un modo di distribuire quando tutto il codice è digitale. Va da sé che la distribuzione non può arrivare attraverso le pizze che girano distribuite in copie nei vari cinema, si piglia e si manda un segnale. Parleremo in avvenire che è l'evoluzione della rete alta banda multimediale. Quindi, se qualcuno ancora oggi dice che il cinema non va in quella direzione, cioè non ha capito niente, sta difendendo una situazione contemporanea e non si rende conto dei grandi cambiamenti. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questo è Matrix, no? Eh sì, esattamente, la scena appunto delle pillole. E che danno accesso a realtà percettive diverse. Io direi, se sei d'accordo, di sentire subito la voce di Enrico Ghezzi e poi commentiamo. Assolutamente. Ma il cinema credo che sia uno stato, lo stato, la spia fisica di uno stato mentale. E alla fine direi è la cosa più, è l'esempio più vicino che abbiamo, per quanto rudimentale eccetera, di, del fatto che viviamo fisicamente in uno stato mentale. Credo che questo sia il cinema. In questa frase Ghezzi, una delle sue frasi estremamente compatte, dice però qualcosa appunto di estremamente profondo, cioè il cinema ci ricorda in modo fortissimo come la percezione, la nostra vita in fondo sia sempre un po' irreale, no? Sì, esattamente. La sua tesi in realtà poi è anche questa, dire ok, queste nuove tecnologie danno una potenza nuova nella maniera di scrivere e di raccontare. Cioè, sì. Ma in realtà lui dice il cinema è così da prima di sempre, nel senso che anche sin dagli inizi, quando bisognava raccontare le storie anche scientifiche, proprio raccontare la fauna marina, anche lì il cinema aveva una forte componente di finzione, di trucco. Esatto. Grazie Gaetano. Prego. Ciao Federico, buonasera. Guerra civile americana e fotovoltaico. Se riesci a mettere insieme queste cose, sei veramente brava. È facile, ho già vinto la sfida. Ciao Paola, da Ciao, Boston. Buonasera. Allora, la notizia è questa. Ebbene sì, ci sono delle bacche color porpora che si chiamano fitolacca americana, per gli amici uva turca, e veniva utilizzata dai soldati della guerra civile americana per scrivere le lettere. Perché funzionano bene, cioè hanno dentro una specie di inchiostro? Perché sì, hanno una tinta, per cui una volta spremute producono questa tinta che può essere utilizzata per scrivere. Oppure viene usata qua dai bambini per pitturarsi le guance di rosso, per esempio. Ah, ancora oggi funge un po' da inchiostro. Io sono andato a vedere, ho visto anche delle immagini. Sì, in Italia appunto si chiama anche uva turca. È un buffo fiore pieno di questi, a me sembrano un po' dei lamponi, tu dici delle bacche nere, sì, intorno a un fiore rossastro, è una cosa così. Esatto, e la cosa bella è che la stessa tinta può essere utilizzata per ricoprire delle celle fotovoltaiche aumentandone l'assorbimento e quindi l'efficienza. Cioè hanno scoperto questo, che c'è questo liquido che è interno, che c'è internamente alle bacche, ha una prestazione elevata per gli effetti fotovoltaici. Sì, esatto. È stato un gruppo di scienziati del Centro per le Nanotecnologie della Wake Forest University che ha cercato di sviluppare questa tintura con proprio lo scopo di trovare qualcosa di efficiente ma anche di poco caro e che si potesse trovare ovunque. Sì. Perché queste bacche crescono veramente su tutti i continenti tranne in Antartide e non hanno problemi nemmeno in caso di siccità. Un po' un'erbaccia, diciamo, cresce da tutte le parti. Le erbacce sono molto robuste, sempre, sì. Per cui la scelta è ricaduta su questa pianta, sia per l'efficienza, sia per disponibilità. Qui adesso capisco da quello che dici tu, cioè stavano cercando comunque qualcosa di vegetale che potesse centrare col fotovoltaico, dando quelle prestazioni, e hanno incontrato le bacche, avranno fatto tanti esperimenti. Eh sì, sicuramente. E poi c'è da dire un'altra novità, è che applicano questa tintura non su delle celle fotovoltaiche qualunque, ma su delle celle che sono costituite da nanofibre. Mm. E praticamente sono fatte da milioni di piccole scatolette. Sì. Che intercettano la luce molto meglio rispetto alla normale tecnologia delle celle fotovoltaiche. In più vengono dipinte con questa tinta all'uva turca e da quanto dicono hanno un'efficienza doppia rispetto alle celle normali. Beh, insomma, hai vinto la scommessa. Fatto. Yeah. Ciao. Ciao. Buon fine settimana. Ciao. Dalle catapulte agli scienziati che suonano i bongos, alle auto elettriche, le prime colonnine che si incontrano in città, alle destrezze mentali e infine al cinema che usa ma anche parla di scienza. Questo è stato Möbius questa settimana. Alla prossima. Buona serata a tutti e a tutte.